Radio 24 Reportage. Effetto tagli sul sociale, quando ci rimettono anziani, minori e disabili. Di Valentina Furlanetto. La scure della Spending Review ha picconato il welfare italiano, mettendo a rischio i servizi alle persone, la sanità, la scuola, l'ambiente e seriamente limitato il grado di tutela dei diritti sociali, allontanando l'Italia da modelli di equilibrio solidale e sostenibile e aggravando in modo preoccupante la distanza fra Mezzogiorno e il resto del paese. Non lo dicono pericolosi sovversivi, ma la relazione annuale del CNEL al Parlamento e al Governo. Solo la sanità, tra spending review e legge di stabilità, dovrà rinunciare a 34 miliardi tra il 2010 e il 2015, con il risultato che cresce la spesa privata di tasca propria, al pari dell'offerta sanitaria low cost, cui fanno ricorso molti cittadini messi nelle condizioni di non poter usufruire dei servizi pubblici. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. 35 miliardi vogliono dire, in pratica, 27.000 posti letto in meno. Ma la sacrosanta razionalizzazione delle spese e la lotta agli sprechi fanno quindi delle vittime eccellenti, come il marito di Franca Scarpata, che ha un tumore da 10 anni e può essere alimentato solo dalla nutrizione artificiale fornita dal Servizio Sanitario Nazionale. Qualche settimana fa, però, Franca ha ricevuto una lettera in cui la si avvisava che d'ora in poi potrebbe non essere più possibile. Queste cose costano tanti soldi per l'ammalato. Va da 80 a 100 euro al giorno, con la pensione che una ha, non ce la fa, di pensione solo per più di 3.000 euro dovrei prendere. Non è un caso isolato, solo al Policlinico Umberto I di Roma ci sono almeno 400 persone che rischiano di dover pagare di tasca propria l'alimentazione artificiale. Alle Molinette di Torino i farmaci vengono dati con il contagocce, all'ospedale di Tivoli c'è stato il taglio di acqua e latte ai ricoverati, a Rimini lo stop alla dialisi notturna, alla ASL di Firenze sono stati garantiti solo interventi chirurgici urgenti e oncologici, per non parlare dei malati cronici colpiti da SLA e non solo, che hanno incassato l'ennesima promessa a parole, ma ora aspettano i fatti. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. L'ultima beffa, ad esempio, per disabili e invalidi è stata scongiurata sul fil di lana. La settimana scorsa è stata sospesa la circolare dell'INPS che prevedeva che gli invalidi al 100% coniugati potessero ricevere l'assegno di invalidità solo se il marito e la moglie insieme non superavano il reddito di 1.300 euro al mese. Scongiurata solo quest'anno, però, perché, spiegano all'INPS, la legge del 1971 resta in vigore, il direttore generale Mauro Nori. Le disposizioni per il limite reddituale dell'inabilità civile sono disposizioni dettate da una norma addirittura del 1971. Il problema persiste perché è una norma, come ripeto, che è attualmente vigente, anche se disapplicata da 30 anni a questa parte, e sulla quale l'Istituto ha più volte chiesto un chiarimento legislativo. Cioè è una norma che esiste ma che non è mai stata applicata, quella di far riferimento al reddito familiare? Sì, per i redditi, per gli inabili al 100%, venendo a determinare peraltro una situazione di paradossale in cui gli invalidi parziali sarebbero avvantaggiati rispetto all'invalido totale nel limite reddituale. È una situazione che va chiarita e va chiarita nelle sedi deputate, ovvero dal legislatore. C just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later, when it gets dark, we go home. Dopo un autunno passato quindi a lottare contro i tagli previsti dalla legge di stabilità, che nella sua prima stesura conteneva una stangata alle pensioni di invalidità e la riduzione dei benefici della legge 104, entrambe le misure sono state cancellate. Invalidi e disabili però devono ancora fare i conti con 1 miliardo di euro di tagli ai comuni per i servizi sociali. Ciò significa la sospensione o la riduzione di molti servizi, quali l'assistenza domiciliare, supporti all'autonomia personale e assegni di cura. C'è poi la questione del fondo per l'occupazione dei disabili, come spiega la responsabile dell'ufficio politiche della disabilità della CGIL, Nina Daita. Questo fondo dava alle aziende che assumevano persone con disabilità in particolare stato di gravità degli incentivi, non so, l'adattamento del posto del lavoro, l'abbattimento delle barriere architettoniche, l'acquisto di ausili particolari di alta tecnologia. Queste sono cose fondamentali che naturalmente non possono andare a carico dell'azienda, ma uno Stato solidale se ne deve far carico. Il nato nel 2000 con 50 milioni di euro, oggi è ridotto a zero, non c'è nulla. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Ci sono poi i malati mentali tra le vittime dei tagli alla spesa sociale. In alcune città i dipartimenti di salute mentale sono stati ridimensionati. Alcuni restano chiusi la notte durante i festivi. Per chi ha un familiare con problemi psichici, la vita è sempre più difficile, come spiega Gisella Trincas. Per quanto riguarda la salute mentale, quello che serve alle persone sono i percorsi riabilitativi, quindi sanitari e sociali, quindi i tagli del sociale ma anche i tagli del sanitario producono che alle persone quei percorsi che richiedono un intervento finanziario specifico e personalizzato vengono a mancare e quindi si garantiscono principalmente gli interventi prettamente farmacologici. Disabili, disabili mentali, ma anche anziani non autosufficienti che avrebbero bisogno di sostegno. In Italia sono 2,5 milioni, lo Stato spende per loro poco più dell'1% del PIL, mentre in Svezia si è sul 4%. Finora le esigenze sono state tamponate con il ricovero in ospedale per acuti o con le badanti, ma ora i posti letto in ospedale vengono tagliati e le famiglie non hanno più disponibilità di pagare personale fisso per l'assistenza. Tutto allora ricade sulle sole spalle dei familiari. Roberto Bernabei, presidente del Network Italia Longeva. Qua si taglia e basta senza una razionalizzazione. Per capirci, se noi istituissimo dei call center a livello delle ASL che hanno un rapporto con gli anziani fragili, questi ultra 85 anni che stanno a casa, per cui si riesca a intervenire mirati in chi è che manifesta un problema. Questa roba qui è un modello per dire, per cominciare a spendere di meno e tagliare in modo intelligente. Infine i bambini, che in questa Italia così vecchia arrivano in effetti sempre per ultimi. Basti pensare che il nostro paese destina solo l'1,1% del prodotto interno lordo alle famiglie contro una spesa per le pensioni pari all'11% del PIL. I servizi come gli asili scarseggiano. Il governo ha recentemente stabilito che le mamme lavoratrici possano scegliere tra congedo facoltativo o voucher di 300 euro per 6 mesi da utilizzare per babysitter o asilo nido. Una goccia e oltretutto la copertura di appena 60 milioni. Nuovo di zecca anche il congedo obbligatorio per i papà. Per quanto tempo? Reggetevi forte, un giorno. Diminuirà anche il numero dei pediatri. Secondo il Libro Bianco 2011 scenderanno dagli attuali 15.000 professionisti a 8.000 nel 2025, dopo i 7 anni di età, tutti dal medico di famiglia. Ma in Italia esistono anche bambini che non sono figli di nessuno. Sono circa 30.000 i minori abbandonati, in affido o in case di accoglienza. Un'emergenza tanto più drammatica in quanto totalmente invisibile. Un anno fa, esatto, il TAR del Lazio ha accolto il ricorso intentato dall'Associazione Amici dei Bambini contro il Ministero di Giustizia per la mancata realizzazione della banca dati dei minori adottabili. Un semplice foglio Excel che permetterebbe di mettere in contatto i tribunali e far sì che un bambino abbandonato oggi in Sicilia trovi subito un genitore da qualche parte. Il Ministero della Giustizia, incaricato alla realizzazione della legge 149, è stato condannato, dopo più di 10 anni di inadempienza, a creare la banca dati entro 90 giorni. È passato un anno e stiamo ancora aspettando. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.